mani spinghe. E allora prendi la mia mano, bella signorita, disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita, pronta che non sarà facile, è tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, baby prepara la valigia, metti le calzare del tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Ed anche quando starò male sarò troppo stanco, come fuoco avanzerò per prendere tutto quanto. Ciò che aspetta è d'essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, bevi, bevi, asciuga il pianto. Bevi, bevi, bevi, bevi dal mio piatto. Sì, tu fai cadere in piedi anche dall'alto. Sì, tu fai cadere in piedi anche dall'alto. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo e Marlena. Vinci la sera, spogliati nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera. Apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo e Dio. Amore accanto a te, baby accanto a te, io morirò da re, yeah. Amore accanto a te, baby accanto a te,